Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, 13:33 minuti, è il momento su Radio 24 delle storie di cronaca grandi e piccole che raccontano la nostra Italia in controluce. Sono nati come gruppi di consumatori alternativi, si organizzano per comprare e distribuire prodotti alimentari locali dall'insalata alle uova di gallina. Piano piano però si sono allargati a tantissimi altri prodotti, dai detersivi al pane. Sono efficienti come la grande distribuzione, però danno più soddisfazione perché rendono partecipi i consumatori. Oggi le associazioni di categoria e le istituzioni li cercano per mettere su delle vere e proprie filiere locali. Parliamo dei GAS, i gruppi di acquisto solidali, quelli toscani, ce li racconta Ubaldo Cianciulli. Agricoltura, filiera corta, GAS, gruppi di acquisto solidale. Questo è il percorso che la Coldiretti Toscana propone per rilanciare l'agricoltura nella regione, che rappresenta una forza trainante per l'economia locale e non solo. Il PIL agricolo della Toscana supera i 3 miliardi di euro, rappresenta il 3,3% del totale regionale e il 6% su scala nazionale. Le aziende agricole sono 46.000 e occupano oltre 60.000 lavoratori. La filiera corta in Toscana rappresenta un'eccellenza a livello nazionale, confermata anche da un recente studio di settore della SWG. Con questi numeri si capisce perché il presidente della Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli, propone la creazione di una filiera agricola tutta italiana, all'attivazione di negozi aziendale Farmers Market sotto il grande marchio di Campagna Amica. Ascoltiamo Tullio Marcelli. Questo progetto è un progetto sicuramente ambizioso che si cala nell'economico. Noi abbiamo messo, diciamo così, di mezzo, se vogliamo, tutte le imprese agricole che fanno vendita diretta, gli agriturismi, le cooperative, i consorzi agrari, ovvero sia tutti quei soggetti che comunque sono attori economici agricoli e che di fatto però hanno con il legame con il territorio la loro forza. Noi vogliamo offrire una vasta gamma di prodotti attraverso i mercati di Campagna Amica, quindi con tutti i punti vendita diretta, gli agriturismi e cooperative e consorzi, che possano essere messi in contatto diretto con il consumatore per garantire quindi un consumo consapevole, stagionale, di qualità, ma soprattutto che sia legato al territorio. Perché la filiera corta? Ma la filiera corta è fondamentale non soltanto da un punto di vista economico, perché evidentemente cominciare a consumare o a riconsumare i prodotti locali vuol dire anche cominciare a valorizzare il territorio in cui si vive. Vuol dire inquinare meno, perché oggi i cibi fanno migliaia e migliaia di chilometri prima di arrivare nelle nostre tavole. Vuol dire avere a cuore non soltanto l'agricoltura, ma anche l'ambiente e il paesaggio del mondo in cui viviamo. E soprattutto vuol dire fare cultura e riscoprire anche dei valori e dei sapori che si stanno perdendo. Ma la filiera corta, anzi cortissima, passa anche attraverso i GAS, i gruppi di acquisto solidale, nati dalla ricerca di prodotti di qualità nel rispetto del principio dal produttore al consumatore, con un trend in crescita. Come funziona e come nasce un GAS ce lo spiega Paolo Gini, che a Vaglia, vicino Firenze, ha organizzato un GAS. La nostra esperienza di gruppo d'acquisto solidale è l'esperienza di un piccolo gruppo di famiglie che si sono messe insieme per acquistare in gruppo, direttamente dai produttori, alcuni generi alimentari, ecco, prevalentemente. Nel nostro caso siamo partiti dagli ortaggi, ecco, trovando un accordo con un agricoltore locale che si è impegnato a coltivare il proprio orto e a fornire alle famiglie dei prodotti dell'orto. Il primo contadino non era più in grado di fornire gli ortaggi per tutto il gruppo d'acquisto, e quindi un contadino del posto ha deciso di rimettere a coltivazione l'orto che era stato abbandonato, destinando i prodotti al gruppo d'acquisto. E quindi per l'agricoltore è una garanzia di sbocco commerciale, diciamo così, sicuro. Per le famiglie è la garanzia di un rapporto diretto con il produttore. Siamo partiti in 4-5 famiglie e ora siamo circa 40 famiglie che acquistano insieme i prodotti più svariati, ecco, dai prodotti locali, quindi gli ortaggi, si acquistano prodotti biologici dei più vari e si acquistano anche prodotti etici. Ad esempio, in questa stagione tutte le famiglie usano arance che vengono negli aranceti confiscati alla mafia, diciamo così, è una filiera cortissima. Ecco. Vi basta questo, diciamo, o dovete integrare questa spesa con un acquisto tra virgolette tradizionale? Ci impone questo stile di acquisto anche la riscoperta della stagionalità, cosa che nei consumi, diciamo così, per gli acquisti della grande distribuzione è perso, no? Invece, voglio dire, c'è la stagione in cui si usano i cavoli, pesce, la stagione in cui si usano le insalate, si usano anche prodotti magari, quindi si scoprono sapori un tempo abbandonati, un tempo persi. Ecco, quindi da questo punto di vista forse non è sufficiente, però uno arriva a scoprire cose magari che col tempo erano perse. Serve molto a organizzare la rete e l'internet. All'interno del gruppo c'è un referente per ogni prodotto che in rete mette le forniture disponibili e tutti attraverso la rete fanno il loro ordine, diciamo così. Ecco. Tecnicamente è praticamente la cosa, cioè qualcuno raccoglie la lista della spesa e quando la raccogliete, quando andate a fare gli acquisti, tornate a casa, dividete la spesa? Sì, il gruppo è organizzato proprio in questo modo, tutti all'interno del gruppo hanno un ruolo anche attivo, per cui io sono il referente delle pesche. Un risparmio secondo voi, economicamente parlando? L'aspetto economico è importante, ma non è l'essenziale, ecco, diciamo così. L'essenziale è la genuinità del prodotto, la scoperta di sapori persi, certo, poi anche il risparmio non guasta, e su altre questioni magari si cerca di in qualche modo essere solidali, ma ad esempio nel nostro caso per quanto riguarda le mele vengono acquistate da un agricoltore che è stato danneggiato dal passaggio dell'alta velocità e quindi probabilmente si pagano un pizzico di più le mele, però voglio dire si sostiene un'impresa agricola che ha avuto dei danni, insomma, ecco, quindi è importante il risparmio, ma è uno degli aspetti. Posso spendere anche qualche centesimo in più sapendo cosa compro, da dove viene e questi centesimi a chi vanno. Quindi la riscoperta di sapori spesso dimenticati, acquisti etici e anche un risparmio economico sono comportamenti virtuosi, sostenibili per l'ambiente che rappresentano acquisti solidali per la collettività. Forse il futuro dell'economia agricola passa anche da qui, dai gas. Italia in controluce. 13:39 minuti, lasciamo la Toscana con i suoi gruppi d'acquisto e andiamo più a sud, in Calabria. È una di quelle storie da film, si potrebbe dire, e il protagonista, guarda caso, Mauro Fiore, di mestiere fa proprio il cinema. Partito da un minuscolo paesino calabrese e approdato a Hollywood 3 giorni fa, lo sapete, ha vinto l'Oscar per la direzione della fotografia della mega produzione Avatar. E a Marzi, dove sta ancora la sua famiglia, la festa non è ancora finita. Paola Anania. Un'enorme locandina di Avatar accoglie chi entra nel municipio di Marzi. Nel paesino di 1000 anime in provincia di Cosenza, molto è cambiato dal 7 marzo, dalla notte in cui sono stati consegnati i premi Oscar 2010. Per la prima volta un calabrese, Mauro Fiore, originario proprio di questo paesino, è salito sul palco delle stelle, premiato per la fotografia del colossal Avatar. Un orgoglio per tutta la comunità, ci spiega il sindaco, ma soprattutto per la sorella e i genitori che a Marzi vivono e che qui abbiamo incontrato, Lorenzo, il padre. Sono saltato anch'io e quasi quasi arrivavo al soffitto con la testa dei salti. Sì. Poi l'avete sentito subito al telefono, sì, cosa ha detto? Lui ci ha chiamato appena loro hanno finito lì, che erano forse le 6 qui di mattina, 6:30, ci ha chiamato, era contentissimo. La prima cosa che ha detto, se lo ricorda? E papà, ce l'ho fatta. Mauro Fiore ce l'ha fatta anche grazie ai sacrifici dei suoi genitori, che 40 anni fa hanno fatto la valigia di cartone e sono immigrati in America. Ancora Lorenzo Fiore. Lui è dal 71 che è lì. Da 7 anni l'abbiamo portato lì in America, sì. Però molto legato alla sua terra, mi dice. Sì, è legatissimo. Forse perché è partito piccolino. E gli è rimasto quel ricordo, non ha avuto la sofferenza del padre in Italia, forse per quello che si ricorda l'Italia. Voi però siete tornati. Siamo tornati perché avevamo la figlia qui, Mariuccia. Adesso c'è anche la mamma di Mauro Fiore, signora, la sensazione è stordita, è felice. Mi guardi, non so dire parole più. Felice? Contentissima, certo è stata un'emozione forte. E siccome io mi sento un po' di rimorso che quando ho appreso questo mio figlio, io dicevo ma che prende, ma questo non ce la fa. Non voleva che facesse questo mestiere, sì, troppo rischioso. E non pensavo mai che arrivava dove è arrivato, sì. E anche lei l'ha sentito subito dopo la premiazione, sì. Cosa le ha detto? Grazie, mi ha detto a me. Grazie di averlo sostenuto. Sì, devo ringraziare a voi. Avete fatto sacrifici per andare in America? Sì, abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo lavorato, figlia mia, come animali. Accanto ai genitori l'altra figlia, Mariuccia, che ci svela un piccolo retroscena del discorso di ringraziamento preparato dal fratello per la notte degli Oscar. Discorso concluso in italiano con un omaggio alla sua patria. E allora, questo fratello famoso con la statuetta in mano, che sensazione? Ah, bellissima, una gioia immensa, ci ha dato una soddisfazione grande, ci ha fatto vivere un senso di orgoglio fortissimo, sia per il fatto che siamo i suoi familiari, sia per il fatto che siamo calabresi e italiani. Infatti nel momento in cui ha preso la statuetta in mano, quel richiamo all'Italia è stato indicativo. Sì, bellissimo, bellissimo. Io avevo letto il discorso che si era preparato. Perché era diverso? No, alla fine... Cioè non c'era viva l'Italia, però alla fine comunque c'era un messaggio in italiano. Abbiamo collaborato un po' tutti, io e i miei cugini, a controllare questo discorso per vedere se eravamo tutti soddisfatti. Quindi un discorso collettivo. Sì, un discorso collettivo. Poi ho parlato con lui ieri, ha detto che alla fine gli è venuto questo slancio di dire viva l'Italia e da lì un po' si è dimenticato tutto il resto. Quindi proprio istintivo quel viva l'Italia. Sì, è stato istintivo, è stato molto istintivo, sì. Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia, un grande abbraccio. Mauro Fiore, che da piccolo ha lasciato Marzi per ritrovarsi da grande sul palco degli Oscar, tornerà nel suo paese d'origine a giugno. Allora, dicono i suoi compaesani, lo festeggeremo come si deve. È tutto per Italia in Controluce, un programma, ve lo ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo anche i nostri indirizzi, potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it, oppure siamo anche su Facebook, Radio 24. Italia in Controluce, un programma aperto alle vostre storie, alle vostre segnalazioni. Ci sentiamo domani alle 6:30, buona giornata da Alessio Maurizi.